Oggi leggiamo nella messa, nella prima lettura, questa storia di Mosè. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. E la donna concepì e partorì un figlio, vide che era bello e lo tenne nascosto per 3 mesi, ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino. Ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: è un bimbo degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allatti per te il bambino? Va, rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino e allattalo per me. Io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio, lo chiamò Mosè, dicendo: io lo tratto dalle acque. Noi leggiamo questo brano dell'Esodo, che è nella feria di oggi, il martedì della 15ª settimana nell'anno, e siccome però oggi capita la memoria della Madonna del Carmelo, noi possiamo leggere questo testo ritrovandovi delle risonanze mariane. E sappiamo che Mosè è figura di Cristo e quindi sua madre può essere vista come figura di Maria. Questa donna che partorisce Mosè e poi e quindi gli dona la vita. E poi gli salva la vita. Gli salva la vita e lo custodisce, lo protegge anche con molta furbizia santa. E così fa la Madonna con noi. Fra l'altro, se noi leggiamo questo testo con queste risonanze mariane che abbiamo in mente per la storia di Maria, e non so, ci richiama qualcosa quella tenerlo nascosto per 3 mesi, è una cosa un po' diversa, però per 3 mesi Maria, diciamo così, tenne nascosta la sua gravidanza soprannaturale, quindi l'essere madre di Dio, stando da Elisabetta e confidandolo solo con lei. E l'Egitto ci ricorda come Maria insieme con Giuseppe hanno salvato Gesù dalla strage degli innocenti, portandolo in Egitto, fuggendo in Egitto. Questo cestello di papiro spalmato di bitume e di pece, dove lei adagia il bambino e lo depone tra i giunchi sulla riva del Nilo, ci ricorda la mangiatoia dove Maria depose, no, adagiò il bambino e senz'altro il suo allattare, una cosa normale che è accaduta con lei, no? Tanto che a Betlemme c'è il luogo, la casa dove la tradizione dice che poi si spostarono Maria e Giuseppe dopo la nascita nella grotta, che si chiama la casa del latte, dove ci sono tutte le mura, le rocce, insomma, della grotta. Hanno un certo biancore, no? Quindi la tradizione pensa che sia una goccia di latte di Maria, no? che ha reso bianche quelle rocce, no? Maria ha dato la vita a Gesù e poi gliel'ha salvata. E questa, quindi questa dimensione materna di Maria, che a noi sta molto a cuore, come ovvio, che è una caratteristica essenziale della sua persona, essere madre di Dio e poi, come conseguenza, madre nostra, e per vocazione ricevuta da Dio esplicitamente, ci parla della sua protezione materna, no? E della sua salvezza, no? E della salvezza che opera nei nostri confronti come mediazione, il Salvatore è Gesù Cristo, ma ce l'ha portato lei. E lei ci genera la vita soprannaturale e poi ci salva dai pericoli. In modo particolare la Madonna del Carmelo, noi ci ricordiamo oggi nella nostra casa, nella nostra famiglia, è particolarmente, diciamo così, ricordata, sia perché è l'onomastico di Zia Carmen, ma anche perché noi portiamo come consuetudine lo scapolare, no? della Madonna del Carmine. E lo scapolare e continua a essere così, il nome di un abito, no? Che portano i religiosi, forse ce l'abbiamo in mente anche noi, cioè quell'abito che si mettono sopra, all'abito più elegante, e per evitare che si sporchi quando fanno i lavori dei campi, no? E per i domenicani è bianco, per i cistercensi è nero e così via, no? Per i carmelitani è marrone o nero, e si chiama scapolare perché si mette appunto sulle spalle, no? E poi dopo, a un certo punto, è nato questa dimensione devozionale. Quindi questo abitino scapolare è diventato più essenziale, no? E nasce, lo sappiamo bene, no? E per questo è la festa, è oggi, no? Da una visione che San Simone Stock ebbe di Maria, no? Lui le chiedeva, supplicava la Madonna di proteggere con qualche privilegio il suo ordine, no? E il 16 luglio del 1251 ebbe la visione di Maria, che gli mostrò uno scapolare come simbolo di protezione dai pericoli e come promessa di pace, assicurando: questo sarà il privilegio per te e per i tuoi. Chi ne morirà rivestito si salverà. E qualche decina d'anni più tardi questa promessa fu confermata in un'apparizione a Monsignore Jacques Douez, al quale garantì: coloro che sono stati vestiti con questo santo abito saranno tolti dal purgatorio il primo sabato dopo la loro morte. E questo Monsignore Douez nel 1322 diventa Papa Giovanni XXII, e scrive una bolla, anche se oggi gli storici non la ritengono autentica, nella quale parla di questo privilegio sabatino. E solo 5 anni più tardi, perché nella Chiesa bisogna essere pazienti, 1726, Papa Benedetto XIII estese a tutta la Chiesa la festa della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, fissandola al 16 luglio. E più tardi Papa Pio X concesse di poter sostituire lo scapolare di stoffa con un'altra medaglia benedetta che abbia da un lato l'immagine del Sacro Cuore e dall'altro quello della Madonna. E nostro padre, in cammino al punto 500, dice: porta sul petto il santo scapolare del Carmine. Poche devozioni, ci sono molte e bellissime devozioni mariane, sono così radicate tra i fedeli e così ricche di benedizione dei pontefici. E poi è così materno quel privilegio sabatino. E forse alcuni, per comprendere la diffusione di questa devozione, anche la popolarità, no, di questa devozione. E mi ricordo che quando, insomma, l'ultimo anno del liceo, quando si leggevano penso per la scuola, ma comunque leggevamo in Malavoglia, mi colpì quella e mi rimase impressa quella particolare quando il giovane Ntoni viene raggiunto dalla richiesta di fare la leva in marina nel dicembre del 1863. Allora il nonno si preoccupa molto e va dal farmacista, il quale gli dice: "No, non ti preoccupare, quando ci sarà la Repubblica nessuno farà più la leva, anche se tutti andremo in guerra quando ci sarà bisogno". Poi il segretario comunale gli assicura che se dà una bella mancia al medico lo riformano sicuramente perché gli trovano un difetto. Però il romanziere dice: "Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza". E il dottore della leva, quando si vide davanti quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia. "Ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivaloni stretti sul ponte di una corazzata in certe giornatacce". E perciò si presero Ntoni senza dire "permettete". La longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Ecco, anche questa, la mamma di questo giovanotto di Aci Trezza, ritiene che portare sul petto l'abitino della Madonna fosse un'assicurazione di protezione. Quindi noi, ecco, questa è una delle devozioni popolari più antiche mariane, ma ancora più antica è quella preghiera che noi recitiamo spesso, no? "Sotto la tua protezione veniamo a rifugiarci, Santa Madre di Dio". E quindi questa preghiera noi ripetiamo, no? "Sotto la tua protezione, sotto il tuo manto", come in tante immagini della Madonna noi vediamo, no? La Madonna che apre il suo manto e protegge la popolazione, no? I fedeli, protegge. Ricordiamo ecco, mi ricorda Santa Maria delle Grazie a Milano, no? Che protegge anche i donanti della Chiesa, no? E nostro padre fece dipingere un'immagine di Maria che apre il suo manto e protegge l'opera, no? Simboleggiata da quella pietra stradale, no? Con il simbolo dell'opera, anche se un po' scheggiata, no? Da qualche pietra ricevuta, no? Da cui è stata colpita, no? Noi quindi consideriamo Maria oggi è la tua protezione, ecco, l'essere tuo rifugio. E questo abito, no? Abito scapolare, che poi per molti è diventata una medaglietta, no? Grazie a Pio X, ma e a me fa ricordare gli abiti con cui Maria ha rivestito Gesù. E quindi, così come ha rivestito Gesù, può rivestire noi. Io penso che il primo abito con cui tu, Maria, hai rivestito Gesù è la nostra stessa natura umana. Tu che sei la prima casa di Gesù, il tuo grembo è la sua prima casa, no? La prima tenda che Gesù ha avuto in mezzo a noi. Nella Bibbia ciò che Dio fa nel grembo della madre viene viene inteso come un tessere, no? Un tessere, un abito. Nel Salmo 139 sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ecco, nostra madre, no, che c'è, cioè Dio attraverso nostra madre che ci dona la vita e intesse per noi e ricama per noi il nostro corpo. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia, mi risveglio e sono ancora con te. Questo Salmo 139, che adesso dice così, hai fatto di me una meraviglia stupenda, nella traduzione precedente diceva, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. No? È proprio il salmista che, e in pienezza è Gesù Cristo, no? Che quando recitava queste parole del Salmo 139 pensava a sua madre e... Il salmista pensa e loda Dio del don, per il dono della vita. Io mi sono ricordato che queste parole mi colpirono in modo particolare quando perché le citava Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae al numero 84 e quando diceva celebrare il Vangelo della vita significa celebrare il Dio della vita, il Dio che dona la vita. Noi dobbiamo celebrare la vita eterna dalla quale procede qualsiasi altra vita. Da essa riceve la vita proporzionalmente alle sue capacità ogni essere che partecipa in qualche modo alla vita. Noi quando nuotiamo nella cala, no, possiamo ammirare, ecco, la vita dei pesci che sguazzano felici nelle acque e pensare che anche loro hanno ricevuto la vita da Dio. E a un certo punto però dopo questa lode alla vita, agli uomini esseri composti di spirito e di materia, alla vita, dona la vita, a un certo punto il Papa dice anche noi come il salmista, improvvisamente, no, senza aver citato il Salmo prima, nella preghiera quotidiana, cioè ogni giorno, individuale e comunitaria. Lodiamo e benediciamo Dio, nostro Padre, che ci ha tessuti nel seno materno e ci ha visti e amati quando eravamo ancora informi. Ed esclamiamo con gioia incontenibile, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. E io penso che queste parole svelavano un suo modo di pregare, no? Perché il Salmo 139 non è citato ogni giorno, no? Nella liturgia, né. Però il Papa Giovanni Paolo II evidentemente nella preghiera quotidiana, individuale, comunitaria, pregava così, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere, cioè lodava Dio per il dono della vita e per la meraviglia che è l'essere umano. Questa lode ha il suo culmine in Gesù Cristo e in Maria che, contemplando il frutto del suo grembo, usa sicuramente dentro di sé queste parole del Salmo per lodare Dio per questo dono della vita del Figlio di Dio a cui lei ha donato la natura umana, il primo abito di cui ha rivestito il Figlio di Dio. E questa contemplazione di Maria su Gesù ci aiuta a considerare il Verbo incarnato e forse insieme con nostro Padre appunto lodare lodare Dio che si è voluto fare uomo, no? Perfectus Deus, perfectus homo. Io ho cercato nei testi pubblicati di nostro padre e ce ne sono molti in cui lui si fa commuovere, no? Da questa verità della fede. Il Figlio di Dio si è fatto carne, perfectus Deus, perfectus homo. In questo mistero c'è qualcosa che dovrebbe emozionare profondamente i cristiani. Ero commosso allora e lo sono ora, vorrei tornare a Loreto. Mi porto là con il desiderio per rivivere gli anni dell'infanzia di Gesù, ripetendo e meditando quelle parole, Hic verbum caro factum est. Si commuove il nostro padre per Gesù che ha fame, che ha sete, che si stanca, no? E quando ci stanchiamo nel lavoro, nello studio, nell'impegno apostolico, quando ci si restringe l'orizzonte, volgiamo gli occhi a Cristo, al Gesù buono, al Gesù stanco, al Gesù che ha fame e sete. Come ti fai capire bene, Signore, come ti fai amare? Ti presenti a noi come uno di noi, uguale in tutto, eccetto il peccato, per farci toccare con mano, che assieme a te potremo vincere le nostre cattive inclinazioni, le nostre colpe, perché né fatica, né fame, né sete, né lacrime contano più. Cristo fu stanco, provò la fame, ebbe sete, pianse. Poi penso all'abito con cui tu, Maria, hai coperto Gesù appena nato, no? Le fasce di Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. E queste fasce sono anche il segno per i pastori, un misterioso segno, forse misterioso per la sua normalità. Questo per voi è il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Anche noi veniamo avvolti in fasce, da te le fasce ci parlano anche delle fasce per le ferite, no? Quando Gesù bambino cadeva e si sbucciava le ginocchia e piangeva e tu lo consolavi e se c'era bisogno lo fasciavi di nuovo. E certo poi pensiamo a tutti i vestiti di cui tu Maria hai vestito Gesù lungo tutta la sua vita, intessuti da te, lavati da te, stirati da te e ogni giorno. E tu ogni giorno ci vesti, no? Ogni giorno ci proteggi. Il quarto abito è la tunica inconsutile. Sì, i padri ne parlano come l'immagine della Chiesa, che è unita, la Chiesa unita, che non si deve dividere, ma in realtà noi ci vediamo prima di tutto l'amore di Maria per Gesù, il suo lavoro fatto pieno d'amore, e tanto che i soldati non la tirano a sorte, non la dividono. E fra l'altro era una tunica non cucita, e quindi Gesù non poteva strapparsi le vesti come facevano così i sacerdoti, perché le vesti erano previamente, diciamo così, sì, cucite in modo blando perché potessero fare quel gesto plateale e poi le povere donne dovevano pazientemente, no? Ricucire le ire, no? Del sommo sacerdote o di quelli lì. Quindi Gesù non, è un segno anche della sua misericordia, no? Non si straccia le vesti. È una tunica senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro i soldati, non stracciamola, la tiriamo a sorte. E nel momento più duro di Gesù c'è la veste più bella di Maria. Maria, tu non ci abbandoni nel momento della prova, della difficoltà, della tribolazione, della croce, come non abbandoni Gesù. E quella tunica, io penso che porti con sé ancora intriso. È ancora intrisa di quel nardo purissimo che Maria di Betania gli ha versato addosso pochi giorni prima. E il quinto abito, Maria, quando Gesù è nudo sulla croce, È il tuo sguardo, è il tuo sguardo che lo copre. È il tuo sguardo e poi quando viene è deposto dalla croce diventano insomma, tutte le tue cure insieme alle altre donne e poi la sindone, no? Il lenzuolo che avvolge Gesù e nel sepolcro tutto nuovo e alla fine e forse per Gesù risorto Maria ha preparato un abito perché non aveva più niente Gesù. E la sindone e anche il sudario è tutto ben ripiegato quando Gesù risorge e lascia lì tutto. Quindi forse Maria sei la prima che ha incontrato Gesù credendo fermamente alla sua risurrezione. Gli aveva portato un abito meraviglioso, forse il più bello di tutti. E quindi noi, sulla base di questa contemplazione di come Maria protegge Gesù lungo tutta la vita, da quando è nel suo grembo, lo protegge con il suo corpo, quando nasce e con le fasce, ecco, a quando diventa grande, noi torniamo ad usare quella preghiera sotto la tua protezione, subtum presidium confugium santa Dei genitrix. Veniamo sotto la tua protezione, ci mettiamo questo abitino scapolare, indossiamo la medaglietta dello scapolare del Carmelo, considerando che tu ecco, ci metti le mani sulle spalle, no? Che tu ci avvolgi del tuo braccio, che tu ci guardi sempre, in modo particolare quando le vicende della vita ci mettono sulla croce, quindi tu ci guardi, ci contempli, no? Come ecco. Diceva nostro padre, no? Meditando la Via Crucis, offri un balsamo, no? A Gesù che va sulla via della croce. E così noi ci sentiamo figli tuoi, no? Noi siamo per te come un altro Cristo, come lo stesso Cristo, quindi tu hai nei nostri confronti lo stesso atteggiamento materno, no? Di generazione, di nutrimento, di protezione che hai avuto con Gesù, non dobbiamo mai dubitare di questa certezza della fede, no? E come raccontava ieri in Tertullia Giulio, ecco, di quei personaggi, no, in terre lontane, no? Il battesimo e il rosario, no? Il battesimo e il rosario per mantenere la fede, no? Anche il battesimo ci parla di questo abito bianco che ci viene donato dalla grazia di Dio, no? Che ci riveste, ecco, rivestitevi di Cristo. Quando noi sacerdoti facciamo questa piccola celebrazione dell'imposizione dello scapolare e tutte le preghiere, tutte le invocazioni di quella piccola celebrazione sono tutte centrate su questa invocazione, questa esortazione di San Paolo: rivestitevi di Cristo. Tu, Maria, operi in noi questa grazia, questa meraviglia. Tu ci rivesti del tuo figlio Gesù e poi come Gesù ci accudisci, ci nutri, ci vesti, ci proteggi.